Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Elia, Elia, Aelia, Elia, Lelia, Lelia, Lelia, Elia Media. La spasso con una bicicletta con due latte di bigoni attaccate ai manici, dove c'era di tutto e di più, pane duro, vestiti, cose raccattate un po' qua e là, e aveva, veniva chiamato Sergio Bocchi perché lui aveva, avendo paura di sante, lui parlava delle radiazioni, lui si metteva sette cappotti perché dice se tengono il freddo e il caldo, tengono anche le radiazioni. Mi ricordo che aveva gli occhi azzurri. E poi, se tengono il freddo e il caldo, tengono anche le radiazioni. Mi ricordo che aveva gli occhi azzurri. E poi... Centrale is now arriving at track number 4. Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. www.aeliamedia.org